Palla Spicchi con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Pietro La Corte in regia, ciao Dario Ricci. Buonasera. Allora, ci sono dei bambini che già sanno tenere un pallone da basket in mano, che una classifica come quella di stasera non l'avevano mai vista in vita loro, perché è dal 17 di dicembre del 2006 che non c'è una classifica di questo tipo con Siena davanti. Partiamo dai, tra poco verrà legge Dario Ricci, partiamo dai risultati di oggi, dopo la sconfitta ed è notizia del giorno, del weekend, insieme a Milan Juventus, secondo me, sconfitta della Montepaschi ieri a Varese, una Varese che ha avuto cuore, muscoli, cervello e coraggio, ha guardato Siena negli occhi e ha dato un segnale, credo, di forza e di coraggio all'intero campionato. Poi tra tre mesi, quattro mesi, Siena tornerà ad essere la squadra da battere, vediamo se si riuscirà a batterla. Se altre riusciranno a batterla, che è un discorso un po' diverso. Oggi, da oggi all'ora di pranzo, l'Armani Jeans è prima da solo in testa alla classifica perché ha vinto 81-72 sul campo di Biella. Poi risultati di questa sera invece, la Scavolini Siviglia-Pesaro sbanca Caserta, che dunque rimane da sola in fondo, 91-89 il punteggio, non da solo in fondo ma comunque in fondo a 0 sì, punti con Teramo che pure ha perso contro Sassari 79-77 con una schiacciata di White all'ultimo respiro. Poi la Canadian Solar Bologna batte l'Air Avellino 73-66. C'è Montegranaro che supera una Benetton Treviso ancora piuttosto difficile da leggere 79-72. Cantù che è finalmente quella che mi aspettavo dall'inizio della stagione, cioè una delle squadre da battere nei primi due mesi. Oggi gioca una partita splendida a Roma, sempre a condurre, anche in questo caso rischia un po' di buttarla via nell'ultimo periodo, ma non ci riesce e vince sul campo di una Lottomatica invece in piena crisi, in pieno passo del gambero, insomma 78-66 per Cantù. Quindi detto di Sassari che sbanca Teramo, c'è Cremona che fa un altro colpo, splendido avvio di stagione di Cremona al di là dei risultati della classifica, perché ha fatto soffrire fino all'ultimo istante Siena, perché ha fatto soffrire fino all'ultimo istante Cantù e oggi ha fatto piangere Brindisi sul suo campo 71-64. Classifica che vede l'Armani Jeans in testa da sola a 6 punti, poi un folto gruppo a 4 punti costituito da Cimberio Varese, Canadian Solar Bologna, Montepaschi Siena, Fabi Shoes Montegranaro, Angelico Biella, Bennett Cantù, Scavolini Siviglia Pesaro e Dinamo Sassari. A 2 punti l'Automatica Roma, Benetton Treviso, Vanoli, Braga, Cremona, Air Avellino ed Enel Brindisi. Chiudono ancora a 0 punti Pepsi Caserta e Banca Tercas Teramo. Dunque, come detto, una classifica che ci sono bambini che sanno già tenere la palla da basket in mano che non avevano mai visto. Stefano Valenti da Bologna. Ciao Stefano. Ciao Carlo, buonasera. Tu hai visto vincere invece la Canadian Solar Bologna su Avellino. Come? Vinta con un allungo nel finale del secondo quarto, poi però per due volte Avellino si è riportato in partita, nonostante abbia giocato una gara per intensità e qualità obiettivamente abbastanza scarsa, però la Virtus di questi tempi non ha continuità e nel finale, quando Avellino ha sbagliato anche la tripla del meno 2 risalendo fino a quella situazione dopo il meno 17 sul 60-43, è stato decisivo un 2-1 di Poeta, 1:15 dalla fine, che ha ridato fiato alla Virtus per il più 9, a seguire una schiacciata di Amoroso, lasciato libero dal pressing distratto di Avellino. Stefano, anche Bologna, come le altre aspiranti, sentiranno in questo momento l'odore del sangue di Siena? Ah, è chiaro che il risultato di ieri dà fiducia, ma al tempo stesso farà arrabbiare molto a quelli di Siena, quindi io credo che ci sta che Siena quest'anno, Siena è vittima del suo modo di essere, cioè della sua infallibilità. È chiaro che una sconfitta di uno in trasferta che arriva per un libero segnato a 1 centesimo dalla fine fa clamore. magari invece potrebbe fare per certi versi la storia del campionato, perché chiaro, darà fiducia alle rivali, però al tempo stesso fa capire che a Siena lavoreranno sicuramente sui dettagli, e quello delle palle perse è quello più evidente. Certo. Le altre mi sembra che siano ancora molto in fase di assestamento, come questo avvio di campionato di Roma lascia intendere, anche i risultati alterni della Virtus, di Treviso, quindi insomma tutte hanno ancora molto molto da lavorare. Grazie Stefano, buon lavoro anche a te. Grazie a voi. Io con Dario Ricci invece do un'occhiata alla vittoria dopo un supplementare della Scavolini Siviglia-Pesaro a Caserta, che ha avuto invece un avvio di stagione sorprendente in negativo, Dario. Eh sì, Caserta ferma ancora a 0 punti in questo trittico negativo, Carlo, da sottolineare anche 2 sconfitte casalinghe, 89-91 il risultato finale dopo un supplementare nel tabellino dei casertani, da sottolineare i 12 punti di Martin Colussi, i 17 in 32 minuti di Luca Garri, con un 3 su 6 da 2, 2 su 5 da 3 e 7 rimbalzi, l'ottima prova di Fabio Di Bella, 19 punti in 31 minuti con 7 su 14, 1 su 3 e anche 7 recuperi, forse sarà il record di giornata, dopo verifichiamo, Carlo. Uh-huh. E anche la prova di Jumaine Jones, 8 punti e 11 rimbalzi, un Jones che nell'attesa della firma di Eric Williams evidentemente si sta dedicando anche al lavoro sporco sotto canestro. Per Pesaro, eccolo qua Eric Williams, scusate, sono stato io a prendere un abbaglio per lui, esordio prima stagionale partita. Con 8 punti. E, per quanto riguarda il tabellino di Pesaro, invece 5 uomini in doppia cifra, 16 punti per Collins, 18 per Cusin e 12 rimbalzi, 13 per Daniel Hackett in 34 minuti con 7 rimbalzi, 14 per Almond Morris e appunto i 13 di Hackett che abbiamo già evidenziato entrando dalla panchina. Beh, Simone Pianigiani sarà ancora arrabbiato per la sconfitta di ieri sera, però oggi ad esempio dando un'occhiata a questo tabellino si vedono scintille azzurre, perché sì. Nella cronica mancanza del nostro basket di un pivot ti trovi un Cusin da 18 punti con 8 su 9 con 12 rimbalzi da 31 di valutazione, ti trovi Una partita che, stando alle cifre, è buona, quella di Daniel Hackett, 13 punti, 34 minuti in campo, 13 minuti, ha tirato bene, ha preso anche 7 rimbalzi. Insomma, mi pare che ci siano scintille azzurre su questo tabellino, senza contare il vecchio Di Bella. E anche Garri, che anche Garri sta facendo un ottimo inizio di stagione a Caserta. Farei un salto a Roma, dove invece Roma mi pare in piena crisi involutiva, perché aveva approcciato la stagione con grande personalità, vincendo in casa facilmente al debutto, bissando questo successo sempre in maniera semplice e larga in Eurolega, poi in Eurolega è rimasta imbattuta, in campionato meno. Fabrizio Fabri. Sì, buonasera. Bisogna dire che Andrea Trinchieri ha un feeling particolare con il legno del pallotto Matica, perché 2 volte è venuto e 2 volte la sua squadra ha dato una bella lezioncina di pallacanestro alla Virtus Lottomatica Roma. Io credo che ci sia un dato significativo in questa partita che sottolinea la grande differenza tra le due squadre. Basta guardare le cifre del tiro da 3 punti, un 1 su 18 della Lottomatica Roma, cui fa da contraltare un 12 su 20 della Bennett Cantù, trascinata da un Martin Lonen assolutamente al di sopra delle righe, perché a parte le capacità balistiche del lungo anomalo di Trinchieri, ci sono anche gli 8 rimbalzi, per cui si è dato da fare sotto le planche, ha punito assolutamente dalla lunga Roma. L'altra nota che è da sottolineare in fatto di cifre sono i 26 palloni recuperati da Roma. Abitualmente una squadra che recupera un numero industriale di palloni come ha fatto Roma tendenzialmente dovrebbe vincere la partita, il problema è che questi palloni recuperati hanno pochissime volte prodotto qualcosa di buono in attacco. Io credo che ci sia da sottolineare assolutamente la prova di Cantù. Io credo che Cantù abbia superato e messo alle spalle i fantasmi della sconfitta di Bologna, che un po' pesavano, come aveva raccontato proprio Andrea Trinchieri in settimana, mentre, come giustamente dicevi te Carlo, c'è un problema involutivo di Roma. Oggi Bonicioli ha tentato di partire con un quintetto particolare, con Vitali, Smith e Dedovic, mandando in panchina Darius Washington, per cercare di rifornire in maniera adeguata Smith, perché oggettivamente lui in questo momento non è al massimo della forma, ma la squadra non lo sa servire come il ragno vorrebbe. Il risultato è stato il 14-0 di partenza di Cantù, che ha un po' smontato questo quintetto. È che c'è poco tempo per lavorare, Roma ha poco tempo per lavorare, perché giovedì arriva il Real Madrid e domenica c'è Avellino. Da parte di Cantù mi pare di poter dire che la creatura dei Trinchieri, dopo aver scopito l'anno prossimo, sia prontissima a ripetersi quest'anno, perché è una squadra quadrata e rispetto all'anno scorso mi pare che abbia un po' più di profondità in panchina, sì. Per cui la terrei abbastanza in considerazione, anche perché mi pare che il titolo di allenatore dell'anno che era stato dato ad Andrea lo scorso anno trovi ancora la giustificazione infatti, in quello che ha cominciato. Ti dico Fabrizio, la sorpresa non è tanto questo risultato a Roma l'ultimo giorno di ottobre, quanto il fatto che Cantù nelle prime tre partite non avesse giocato bene, una partita buttata via a Bologna sul campo della Virtus, un'altra vinta con grande preoccupazione contro Cremona, e insomma mi sorprende poco il fatto che Cantù, per come è costruita e per il fatto che insomma ha cambiato pochissimo in estate ed è una squadra reduce da una semifinale scudetto, ebbene la partita di oggi mi sorprende meno di fronte ad una Roma che ha il cartello lavori in corso appeso non so per quanto tempo ancora. Sarà ancora per un po' di tempo, perché il prossimo inserimento di Gigli e D'Adome porterà poi Boniciolli avrà ancora, tra virgolette, più problemi di scelta e di amalgama nel gruppo. E come tutte le squadre che sono non costrette, ma che hanno il piacere di giocare l'Eurolega, hanno chiaramente minor tempo da poter passare in palestra. Io credo che sia fondamentale in questa squadra assegnare delle gerarchie, perché mi pare che altrimenti si possa fare un po' di confusione. Ne è la testimonianza, credo, il nervosismo di Washington, che immagino che chi avrà visto la partita su Sky avrà visto, c'è stato un battibecco abbastanza duro con Boniciolli, che dimostra come poi magari alcune scelte, come quella di non partire in quintetto, alla fine sulla psicologia di alcuni giocatori pesano. Sì, mi sembra che Roma insomma sia alle prese con il tentativo di risolvere problemi antichi che già risalgono all'anno scorso, perché la situazione era un po' questa: gerarchie, scelte, troppi giocatori e troppe contraddizioni. Io ringrazio Fabrizio Fabbri dal Paralottomatica. Ci fermiamo per il traffico e poi diamo un'occhiata in cifre alla vittoria di Montegranaro su Treviso. Dunque torniamo come promesso dando un'occhiata in cifre alla vittoria di Montegranaro sulla Benetton Treviso, che dunque altra sconfitta esterna per Treviso dopo quella della settimana scorsa a Milano. Vale un po' per Treviso, secondo me, il discorso fatto Aurora per Roma alle prese, ripesa con problemi un po' antichi, cioè di identità di questa squadra. Eh sì, identità, equilibri che invece sembrano essere ben chiari nel gruppo di Pillastrini. Montegranaro che vince 79-72, una Treviso che pure nella prima metà della gara era stata in testa, 20-25 il primo quarto, poi all'intervallo 40-42, ancora 57-60 alla fine del terzo periodo, e poi però l'allungo di Montegranaro fino al 79-72 finale. Da sottolineare che i marchigiani vincono nettamente, Carlo, la battaglia al rimbalzo 40-25 e chiudono con un ottimo, anzi eccellente, 10-21 per un 47.6% da tre punti contro il 25% di Treviso. Nel tabellino spiccano i 13 punti e 12 rimbalzi di Sherrod Ford e poi Bobby Jones 14 punti in 22 minuti e soprattutto anche 6 recuperi. A proposito di recuperi, Ivanov aggiunge ai suoi 10 punti e 11 rimbalzi anche 3 recuperi, quindi chiave della partita in difesa, e anche da sottolineare i 13 punti di Cavaliero e i 10 di Maestranzi. Per quanto riguarda Treviso, in doppia cifra Devin Smith, 16 punti in 31 minuti, 4-5 da 2, 2-6 da 3 e 3 rimbalzi per una valutazione di 11 punti, e poi 11 punti quelli di Toulson con un 4-6 da 2 ma appena 1-7 da 3 punti, e sì che Toulson dovrebbe essere proprio il cecchino da fuori, no? per i trevigiani. Sì, mancava settimana scorsa mancava Greg Brunner, oggi è rientrato ma a mezzo servizio, solo 4 punti e 2 rimbalzi per lui. Proprio contro Montegranaro, no? Sì. La sfida dell'ex. La sua vecchia Montegranaro. Flavio Tranquillo, buonasera. Buonasera. Senti, io ho detto, lo ripeto per la terza volta, però mi piaceva. Ci sono bambini che oggi tengono la palla in mano e che non erano ancora nati quando Siena era secondo o terzo in classifica. Sì, sicuramente è una cosa che fa effetto, altrettanto sicuramente da un punto di vista razionale quello che succede alla terza giornata ha un valore del tutto relativo, ma al di là di queste ricorrenze e di queste lontananze temporali rispetto all'ultima volta in cui eravamo stati in questa situazione e al di là della sconfitta di un punto che mi sembra correttamente, dice Pianigiani, non è quello che ci dimostra le difficoltà di Siena, le difficoltà di Siena ci sono. Sì, le difficoltà di Siena ci sono e ci saranno anche concorrenti che, e contendenti che magari approcceranno Siena in modo diverso, almeno nei prossimi mesi, perché secondo me tra 3-4 mesi Siena sarà ancora la squadra da battere. Se ci saranno squadre in grado di batterla tra 3-4 mesi, questo è quello da scoprire. Assolutamente, io vado oltre, diciamo che il fatto che tra 3-4 mesi Siena sarà la squadra da battere mi trova d'accordo, presumendo che tra 3-4 mesi sarà inserito nel meccanismo un giocatore come Malik Hairston che ha una qualità ben sopra la media rispetto al campionato italiano. In questo momento Siena manca di qualità soprattutto rispetto al passato prossimo. Diciamo che le due principali avversarie dovrebbero essere Milano e Roma, è vero che Milano è a punteggio pieno, è vero che Milano è molto continua, ma ancora anche oggi a Biella non vedo la scintilla, quella che serve poi alla fine per spodestare il re, e Roma ha giocato un paio di partite a un livello di intensità clamoroso, penso Brindisi e penso al Bamberg. Sì. E oggi ha praticamente passato, oggi non aveva le carte e non ha giocato contro Cantù, quindi per adesso non abbiamo ancora sufficienti elementi per dire che alla fine della fiera Siena sarà spodestata, però certo è battibile, che è una super notizia, non una notizia. Sì, Roma mi sembra tornata a problemi antichi di comprensioni, di rapporti, di chimica, di gerarchie, mi sembra quel guazzabuglio un po' informe che era per le mani di Bonicioli già l'anno scorso. Flavio, invece una parola su Varese, però ci vuole, tu ieri sera eri a Varese, hai visto quella partita, hai visto Recalcati, poi ha detto una cosa molto bella: mi sono fermato a guardarmi in giro perché mi piace vedere la gente felice. Ieri era felicità a Varese. Eh sì, sicuramente, diciamo che una squadra di veterani si vede anche dalla capacità di annusare l'aria, no? E ieri c'era nell'aria la possibilità di provarci, e sicuramente per dire due nomi a Galandi e Recalcati non è dispiaciuto, come nello spirito sportivo, battere la loro ex squadra. Durante la partita direi che hanno capito che avevano annusato giusto e quindi hanno piazzato quel colpo. Sì, ieri sicuramente Varese ha vissuto una serata di quelle che si ricordano. Flavio, ci eravamo lasciati l'altra settimana analizzando anche l'ultimo posto di Caserta, appena due giornate, dicevamo due sconfitte non possono far dare là grandi ragionamenti, però adesso sono diventate tre, la sconfitta di oggi aggiunge qualcosa a quelle osservazioni che avevamo fatto appena sette giorni fa? Non particolarmente, però aggiunge un trend, questa è una squadra che lascia giocare. E ci sono squadre che se lasciate giocare ti possono far male in questo campionato. Per lasciar giocare intendo fare un tipo di difesa che spera molto più nell'errore dell'avversario che non nel tentativo di condizionare quello che fanno gli avversari. Non posso parlare naturalmente per stasera, ma ho visto le prime due sconfitte di Caserta e mi sembrava che il mio comune denominatore fosse quello. Grazie Flavio, buon lavoro. A voi. Alla prossima. Grazie a Flavio Tranquillo che ritroveremo naturalmente venerdì con Palla Spicchi. Tra poco vi do anche i risultati della Lega 2, eppure la classifica. Ma prima la vittoria di Sassari su Teramo, a Teramo, con il duello dei Diner. Eh sì, è il duello dei Diner che si risolve a favore del Sassarese. Allora, 79-77 per la Dinamo Sassari sulla banca Tercas Teramo, 16-17, 34-39, 52-56, quindi sempre avanti Sassari fino al 77-79 finale. Allora, partiamo proprio subito dai Diner. Quello di Teramo, Drake, piazza 15 punti in 33 minuti, 3 su 7 da 2, 3 su 5 da 3 punti, 4 rimbalzi, 3 perse e 2 recuperi per un 11 di valutazione. Per quanto riguarda invece Travis, quello di Sassari, beh, appena 2 punti in 20 minuti, 1 su 3 da 2, 0 su 5 da 3 punti, appena un rimbalzo, però si porta a casa i 2 punti, Carlo. Sì, per il resto si porta a casa i 2 punti, grazie, come dicevamo prima, a una schiacciata di James White sul suono della, della sirena. Sì, 13 punti per James White con 3 rimbalzi in 32 minuti. Sarà una mia fissa, ma do un'occhiata sempre ai giocatori eleggibili per la nostra nazionale e qui la, la scintilla la vedo in Achille Polonara, 14 minuti, 6 punti, ma anche 10 rimbalzi. Eh sì. 10 rimbalzi, ragazzo, 6 non certo timido, e 4 difensivi per 13 di valutazione. Ottima, ottima la prova di Polonara. Beh, tra i giovani anche i 3 punti di, in 6 minuti di Rullo, che sta cercando di ritrovarsi un po' a Teramo. Tra Sassari poi nel tabellino di Sassari spiccano i 19 punti di Otello Hunter, 7 su 10 da 2 punti e 7 rimbalzi. Immaginate la festa in Sardegna per questo primo successo esterno. Dunque vi do i risultati della Lega 2, dove ne è rimasta soltanto una in testa ed è la sorprendente perché non era tra le candidate a sogni di questo tipo, Snyder Udine, che è ora in testa da sola per l'appunto. Perché Venezia ha perso a Casale Monferrato 93-82, quindi Imola che perde in casa con Reggio Emilia di 1 78-79, Pistoia che batte Casal Pusterlengo 75-70, appunto Fastweb Casale 93, Umana Venezia 82, Rimini che batte Barcellona 95-91, quindi Forlì vittoria su Scafati 96-87, Ferrara che batte Verona 81-69, Udine che appunto supera San Severo 84-68 e Iesi che batte Veroli, anche questo è risultato un po' sorprendente, Veroli non, che invece tra le candidate non è partita benissimo. 96-91, quindi Udine 10, con 8 punti troviamo Rimini e Venezia, poi un gruppone a 6 con Pistoia Barcellona, Reggio Emilia, Iesi, Casale Monferrato, Casal Pusterlengo, 4 punti per Forlì, Scafati, Imola, 2 per Ferrara, Veroli, Verona, ancora al palo, la matricola San Severo, c'è qualcos'altro? Ma darei subito un'occhiata al volo, al certo. Volissimo, anzi, nel Brindisi, Vanoli, Braga, Cremona, 64-71 per i cremonesi, decisiva. Che colpaccio di Cremona. Sì, bellissimo, dicevamo, tra l'altro, ottimo inizio di stagione per la qualità del gioco, arrivano anche i punti, grazie anche ai 20 messi a referto in 34 minuti da Marco Milic, 15 per Drozdov e 16 per Earl Rowland. Non bastano invece a Brindisi 19 punti di Anthony Robertson, che faceva il suo esordio al posto dell'infortunato Morrow, e i 16 di Bobby Dixon. Benissimo, questo è il quadro della Serie A di basket, della giornata di basket. Io ringrazio Dario Ricci, ringrazio Giorgio Rucchi in redazione, Pietro Accorti in regia. Domani alle 2 c'è Gigi Garanzini. Per quanto vi riguarda, ci sentiamo venerdì alle 2 con Palla Spicchi e poi naturalmente nel prossimo weekend. Buona serata.